Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Sono entrate nella nostra vita, ci hanno cambiato la vita, spesso in meglio, ma a volte, proprio come succede un po' come i farmaci, hanno manifestato qualche effetto collaterale, questo soprattutto quando in gioco ci sono i nostri figli. Buongiorno da Nicoletta Carbone. Oggi parliamo delle nuove tecnologie. Social network, videogiochi, motori di ricerca, cellulare hanno un lato A, ma hanno, come spesso succede, come succede direi in ogni cosa, il lato B. Vi è mai capitato di conoscerlo direttamente? Avete una storia da raccontarci? Vi aspettiamo ai nostri microfoni 800 24 00 24. Oggi la nostra trasmissione parte da una storia raccontata da una nostra ascoltatrice in diretta, una storia sempre più frequente. Ne discuteremo con Alberto Pellai, che è qua in studio con me, medico, ricercatore, psicoterapeuta. Basta così. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. E con un panel di esperti che da 3 settimane attiva interagisce con i genitori italiani all'interno del progetto In Famiglia di Vodafone Lab. Saluto Lucio Bragagnolo, giornalista e divulgatore intorno ai temi di tecnologia. Abbiamo poi Giovanna, però è caduta la linea, ma intanto io saluto Valentina Carnevali, la mamma di questo panel. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci raggiungerà tra poco anche un sociologo, perché la tecnologia, l'ingresso della tecnologie hanno cambiato il nostro modo di relazionare, il nostro modo di comunicare, il nostro modo anche di vedere e di avvicinarci alle cose quotidiane, alla vita. Infatti ci raggiungerà il professor Giovanni Bocciartieri, che è professore di sociologia, coordinatore del corso di laurea di scienze delle comunicazioni dell'Università di Urbino. Ve li ho presentati proprio tutti perché oggi poi parleremo anche della salute davanti al computer. A volte l'utilizzo, l'abuso di ore e ore davanti al terminale porta qualche problemino che noi vogliamo evitare, e quindi sentiremo anche gli esperti che parleranno della qualità del sonno, a volte disturbato, e per guardare il computer bisogna anche utilizzare la vista, che a volte si stanca. Quindi io vi invito ad intervenire in questa puntata, devo dire proprio a 360 gradi, 800 24 00 24. Però partiamo subito dalla storia che ha dato un po' il là alla nostra puntata. Ce la racconta in diretta Mirella da Genova. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Mirella, intanto io la ringrazio molto per aver così contattato la nostra redazione e aver accettato di raccontare proprio questa storia familiare. Molte famiglie le tengono per sé, invece lei ha fatto secondo me questo atto coraggioso, Alberto. Sì, le siamo, di mettere un po' in piazza i propri, gli fatti siamo propri. Davvero grati, perché tra l'altro capita spesso, no, che arriva in redazione una mail e se poi provi a verificare ma lei sarebbe disponibile a raccontare in diretta, no. Ecco, invece Mirella è molto coraggiosa. Cos'è successo, Mirella, a casa vostra? Allora, intanto racconto. Noi abbiamo un bambino di 10 anni che frequenta la 5ª classe della scuola primaria. Da qualche mese frequenta un corso di chitarra con un compagno di classe, e durante la lezione abitualmente il maestro utilizza internet per ascoltare le basi musicali. 20 giorni fa ricevo una telefonata. Un'amica mi dice che durante la lezione di chitarra, approfittando dell'assenza del maestro, i nostri ragazzi hanno utilizzato il suo portatile a un sito pornografico. Lei mi riferisce che, interrogandolo, il suo bimbo gli ha fatto il nome del compagno di classe che abitualmente lo guardo. La ringrazio tantissimo dell'informazione che mi ha data, però non nascondo che in quel momento mi sono proprio sentita salita come da uno tsunami. Ho riferito tutto a mio marito e, controllando il nostro computer, purtroppo abbiamo trovato le tracce della visita a questi siti. Sconvolti ma molto determinati, abbiamo affrontato il nostro figlio insieme, che nell'imbarazzo ha ammesso. Con calma abbiamo cercato di spiegargli che quelle immagini non erano assolutamente adatte a un bambino della sua età, e che l'amore fra due persone adulte è una cosa bellissima, che non ha niente però a che vedere con quelle persone che usano invece i loro corpi principalmente per soldi. Poi ha confessato il nome di un altro compagno di classe che gli ha dato tutte le informazioni. Quindi era un gruppetto. Certo, il provvedimento è stato drastico, niente internet per 6 mesi e se necessita di scaricare qualche base musicale può farlo solo in nostra presenza. Poi chiaramente parlando con mio marito abbiamo ritenuto opportuno avvisare anche la mamma del bambino che nostro figlio aveva menzionato, che tra l'altro conosciamo. A sua volta lei ottiene il nome di un altro compagno ancora. Niente, decidiamo noi genitori di trovarci e parlare di questa cosa. Ci rendiamo conto che il problema è più esteso di quanto pensassimo. Allora decidiamo di avvisare la maestra d'italiano, che tra l'altro è molto disponibile e attenta, ci ha ascoltato e subito si è attivata sia per noi, sia con i nostri bambini, che con una psicologa che proprio in queste settimane sta tenendo dei corsi sulla sessualità nella nostra classe. Sì. La cosa positiva è appunto che ci siamo sentite unite in questa battaglia, in questa cosa che effettivamente ci ha tutte spaventate, ma siamo riusciti a intraprendere questa strada comune e finalmente devo dire che abbiamo trovato questa maestra molto, molto disponibile e adesso si assumerà lei la responsabilità di avvertire anche tutti gli altri genitori. Genitori, insomma, Mirella, avete fatto rete. La rete funziona. Ma ecco questa, la cosa bella è questa, perché effettivamente io mi sono particolarmente spaventata perché comunque a nostro figlio cerchiamo di dargli tutte le attenzioni, la televisione misurata, i giochi con il timer e questa cosa veramente è piombata nella nostra casa. È stata casa un po' una doccia fredda, Mirella. Mamma mia, una coltellata anche, alle spalle. Anche perché, dire. Mirella, si parla di un bambino di 10 anni, Alberto. Ecco, la cosa che mi ha sconvolto è proprio questa. Io, quando si parlava anche con mio marito, si diceva senz'altro, se 15, 16 anni, questo argomento salterà fuori. Cioè, può anche essere che con gli amici possano anche vedere dei siti pornografici, però chiaramente più avanti, cioè molto più in là, 10 anni sembra proprio una cosa molto molto prematura. Ecco, quella che ci racconta Mirella, per me, che insomma un po' mi muovo anche in questo settore, è una situazione di relativa frequenza e devo dire che a noi è piaciuto molto anche un po' quando lei ci ha comunicato tutta la sua vicenda, il modo di gestire questa cosa, che si è creata una vera e propria rete di comunicazione nella vita reale tra genitori che ha visto il problema. Uno, credo, dei fattori in questo momento di complessità è che spesso i genitori non vedono, ma perché non sanno interagire con gli strumenti tecnologici con la stessa competenza che invece è posseduta dai figli, e conseguentemente c'è quello che si chiama proprio un divide culturale, che magari è molto interessante anche far commentare per esempio a Valentina Carnevali, la nostra mamma del forum in famiglia. Voi come mamme, quando interagite tra voi genitori nel forum, vi rendete conto che esiste davvero questa distanza incredibile tra ciò che i figli sanno e fanno e ciò che invece sanno e fanno i genitori? Decisamente c'è una distanza che però personalmente io credo debba essere colta da noi genitori come un'opportunità, nel senso che noi genitori siamo talmente concentrati nel nostro ruolo di educare, stare attenti, capirli, fare guida, che spesso ci dimentichiamo, o almeno personalmente io a volte mi dimentico, che in realtà è una relazione a due sensi e che quindi ascoltarli non solo per controllare che le loro idee o comunque i loro pensieri siano in linea con un atteggiamento, un comportamento adeguato, ma ascoltarli anche per imparare e quindi lasciare anche loro in mano lo strumento che ci permette di avvicinarli è una cosa estremamente importante, ma anche meravigliosa, secondo me, proprio anche fa parte della meraviglia di essere un genitore. A volte anche lasciarsi guidare, va bene, non ne so niente, raccontamelo tu. Spiegami. Chiaramente poi con la criticità dell'adulto io nella spiegazione di mio figlio posso intuire dove ci sono dei rischi o dove ci sono delle cose che non sono in linea con i miei principi educativi e lì aggiustare il tiro, ecco. Io vorrei sentire il professor Bocciartieri. Professore, internet e le nuove tecnologie in genere hanno cambiato proprio il nostro modo di comunicare e anche di esplorare la realtà. Ci sono molte più opportunità rispetto al passato e naturalmente anche dei rischi, no? Questo è un fenomeno sociale, possiamo dire così, di cui naturalmente la scienza che studia la società, la sociologia, si sta occupando. Sì, assolutamente. assolutamente sì, in particolare gli internet studies che stanno cominciando, come dire, ad esplodere anche nella realtà italiana, si occupano di monitorare quello che sta succedendo, che sta cambiando. Ovviamente, come dire, ogni tecnologia porta con sé degli elementi di possibilità, sia positiva che negativa. Si tratta di fare un po' di chiarezza e magari di avere anche un po' di trasparenza sui fenomeni. Visto il caso di cui stavamo parlando, come dire, sicuramente, come dire, è preoccupante per un genitore e mostra anche una, come dire, novità. Sì. Rispetto alle cose di cui ci dobbiamo occupare, però se penso veramente a quanto si è esteso al fenomeno, che, come dire, può essere molto frequente ma non di così grandissimo impatto in termini numerici, le ricerche ci dicono per esempio che il 7% dei bambini italiani ha incontrato nell'ultimo anno delle immagini, come dire, di pornografiche o di esplicita sessualità su internet. Poi ci dobbiamo chiedere anche come rimangono, certo, no? E quindi la maggior parte di questi in qualche maniera vengono traumatizzati da questo tipo di immagini. E perché le cercano, no? Così piccoli? Sai, professore, che mi stanno arrivando i messaggi al 349-238-6666. Gabriele mi dice che è successa la stessa cosa della signora, della nostra Mirella da Genova, alla sua bambina di 10 anni, e lui dice pensa un po', Nicoletta. E anche ad un altro ascoltatore mi scrive: a mia figlia è successa a casa di un'amichetta, però ha solo 7 anni. Allora mi chiedo, Alberto, come siamo cambiati? Cioè, a un bambino della passata generazione è così l'occasione che fa l'uomo ladro, o ci sono un tale bombardamento di messaggi di donne mezze nude, tutti questi che si, no, tutte queste immagini che anticipano la curiosità dei ragazzini? Perché stiamo parlando di piccinini, questi fanno le elementari. Userei un po' la metafora del far conoscere a un figlio una grande città, una metropoli dove non è mai stato. È chiaro che magari venendo da un territorio di provincia, da un piccolo paese, quella metropoli sarà per lui un'esperienza sconvolgente. Nel bene, se viene guidato bene, viene accompagnato, ha qualcuno che lo tiene per mano e sa portarlo nei luoghi che fanno bene a lui. Nel male, se in qualche modo è lasciato da solo, cioè non c'è un progetto, non c'è l'intuizione che lì da solo un bambino si perde. Direi che questa è un po' la situazione. C'è la possibilità di stimolare i nostri figli in tanti modi diversi, di portarli in tanti territori diversi o di lasciarli andare in tanti territori diversi. E direi che il genitore, la sua competenza è la variabile chiave. Intanto io invito i nostri ascoltatori ad intervenire 800 24 00 24. Posso solo aggiungere un commento? Il problema non è solo dei bambini, anche noi adulti, se in qualche modo non presidiamo un po' il territorio, il nostro bisogno, rischiamo di perderci nelle tecnologie. Ci sono, possiamo sviluppare dei problemi invece di prenderne tutti i vantaggi. A volte ci confrontiamo con numerosi svantaggi, quindi anche le storie di grandi che si sono trovati un po' a dover fare i conti con il lato B delle tecnologie. Allora, io voglio leggervi un messaggio. Io a 11 anni non avevo internet, ma a scuola giravano i giornaletti e la sera, colpo grosso, le cose proibite si cercano volontariamente da sempre, indipendentemente dalle tecnologie. 11 anni. Anche un altro ascoltatore mi scrive: io ricordo che quando io avevo quell'età si rubavano i giornaletti porno in edicola. Dottor Bragagnolo, qua c'è bisogno di un po' di, insomma, di un occhio in più, nel senso che ci sono ascoltatori, ad esempio Gigi mi scrive: bastava usare un parental control, e altri mi dicono che a causa del suo mal pianga se stesso. Senza controlli i ragazzini vanno allo sbando. Si possono evitare queste cose? Si possono. Buongiorno a tutti intanto, e complimenti a Mirella per la determinazione e soprattutto per la lucidità con cui ha affrontato la sua avventura. I parental control e le forme di controllo, diciamo, automatiche sono sostanzialmente palliativi, possono risolvere qualche situazione in cui i ragazzini non sono ancora arrivati ad avere una certa competenza tecnica, dopodiché loro iniziano a saperne abbastanza per superare anche quell'ostacolo. Certo. E a quel punto il problema si raddoppia, perché si crede che il ragazzino sia al sicuro, e la cosa brutta di dell'uso del parental control non critico. La parola criticità pronunciata da Valentina secondo me era fondamentale. La cosa brutta è che si delega integralmente il lavoro non di controllo ma di crescita congiunta bidirezionale a due sensi, genitore e bambino, qualcosa di meccanico. Certo. A proposito di effetti collaterali, molti ragazzi, ma devo dire anche molti adulti, finiscono le giornate davanti al computer, quasi fosse un rito della buonanotte, ma non considerano che questa nuova abitudine interferisce, potrebbe interferire sulla qualità del sonno. Ne parliamo col professor Ferini Strambi. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a voi. Responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano, ma è spesso nostro ospite qua, ogni tanto mi dimentico anche di presentarla. Professore, allora, notti disturbate a colpa di internet? Ma sì, sicuramente, perché il problema è duplice. Allora, da una parte c'è il discorso che questi giovani sono davanti a degli schermi luminosi, e allora dobbiamo ricordare che il fatto di essere di fronte a uno schermo luminoso vuol dire inibire il rilascio di melatonina. Quando c'è luce, la melatonina viene inibita e quindi questo sicuramente contribuisce a un non buon addormentamento. Quindi questo è un aspetto. Ma poi c'è l'altro aspetto importante, che siccome di fronte a internet si ha una certa reattività, quindi uno rimane in un certo senso un po' eccitato, per quanto riguarda appunto i centri della veglia, tutto questo impedisce un buon addormentamento, perché non dimentichiamoci che quando uno deve addormentare, i centri della veglia si devono spegnere e devono prevalere quelli del sonno. Allora purtroppo, se noi stiamo davanti a internet, facciamo i giochini, rispondiamo alle mail eccetera, sicuramente il nostro cervello rimane molto attivo e questo spegnimento dei centri della veglia diventa molto difficoltoso. Quindi un consiglio, professore, per grandi e per piccoli, perché comunque poi funzioniamo tutti più o meno allo stesso modo, no? Non è che i ragazzi funzionano in modo differente, no, me lo dica lei. No, assolutamente, questo vale sia per grandi che per piccoli. Il problema è che dopo le 9:30-10 di sera, appunto, bisognerebbe lasciar perdere questa attività, questo attaccamento al computer, a internet, a tutte queste cose, proprio per cercare di prepararsi al sonno. Quindi, come dico sempre spesso, il sonno bisogna un po' guadagnarselo, insomma, quindi non si può pretendere appunto di spegnere il computer, spegnere la luce e il sonno arriva. Ecco. Anche perché poi questi ragazzi tendono a vivere un po', a stare molto svegli di notte e poi ad addormentarsi di giorno, e poi sfasano in modo un po' critico, vero, i loro ritmi di veglia e di sonno. È così? Questo esattamente, questo poi è il problema, che c'è una ripercussione importante poi anche su quello che è la giornata, perché questi ragazzi, non dormendo alla sera, rimangono in una condizione di privazione di sonno, e questo poi comporta poi l'eccessiva sonnolenza di giorno e poi il gatto che si morde la coda, no? E quindi si arrivano un po' ad avere quei ritmi sballati che, per carità di Dio, in alcuni soggetti, quelli che sono, diciamo così, tendenzialmente gufi, cioè quindi con l'orologio biologico spostato in avanti, questo a volte appunto già di base crea di per sé un problema, ma se poi ci mettiamo anche diciamo così ulteriormente il problema di non rispettare la ritmicità, certo, appunto dormire, andare a dormire sempre più tardi ed essere sempre più assonnati di giorno, questo chiaramente poi compromette tutto, sia la qualità, visto che parliamo di giovani, la qualità poi scolastica, ma anche poi la qualità di vita, insomma. Allora, professore, io voglio ringraziarla e salutarla, so che lei deve scappare, intanto voglio salutarla con un sms di un nostro ascoltatore che ci scrive: spegniamo tutto tranne la luce per leggere un libro o per vedersi e chiacchierare. Professor Ferini Strambi, grazie, a presto. Grazie sempre a voi, grazie. Mirella, grazie a lei. Mirella, grazie davvero per essere intervenuta, per averci raccontato la sua storia. Ci sono molti ascoltatori che scrivono: è stata una mamma coraggiosa. Grazie, e noi intanto continuiamo a parlare con i nostri esperti. Mirella, buona giornata. Grazie a voi tutti per questa opportunità. Essere e benessere. Eccoci, siamo insieme, nuovamente insieme. Oggi tecnologie, pro e contro, sfide, opportunità. Come sta andando a casa vostra? 800 24 00 24. Alberto, io partirei con una specie, con una scenetta. Possiamo chiamarla così? Sì, una narrazione. Narrazione, andiamo. Papà, tu non capisci. Oggi se non hai un profilo su Facebook non sei nessuno. Io sono tuo padre, non ho un profilo su Facebook e credo di essere qualcuno. Beh, papà, sei proprio una noia e per giunta si vede che non capisci molto di come vanno le cose adesso. Io muoio dalla voglia di farmi il profilo su Facebook e lo farò anche se non vuoi. Lo sai che è una cosa pericolosissima? L'altro giorno ho sentito dire da una collega che una ragazza è stata quasi rapita da uno che aveva conosciuto su Facebook. Papà, sei il solito esagerato. Nella mia classe ce l'hanno quasi tutti e non è mai stato rapito nessuno. Si vede che nella tua classe sono stati molto fortunati. Prima di avere un profilo su Facebook, dovrai passare sul mio cadavere. Uffa, con te non si può proprio parlare. Non è vero. Con me si può proprio parlare anche di tutto, solo che poi alla fine si fa quello che dico io. Se ti aggiornassi un po', non farebbe male neanche a te. Se avessi un padre che ne capisce qualcosa di nuove tecnologie, tu nemmeno sai come si accende un computer. Ecco, appunto. Cerca di cambiare padre, perché io invece non cambio. Direi, Alberto, una conversazione, direi, i toni spesso nella realtà sono molto più accesi e coloriti, perché ormai... Fotografa, no? Però proprio questa distanza che c'è tra un figlio che probabilmente vorrebbe tutto subito e un genitore che alla fine allora risponde niente e mai, e probabilmente questo genera proprio quello che si chiama il cultural divide, il divide generazionale culturale. E su distanza, direi, su perché poi Dante mi scrive che usiamo i distanza, termini in inglese. Esatto. Probabilmente la conclusione di questa cosa, che ogni tanto ci viene anche nei messaggi che stanno mandando gli ascoltatori, è che effettivamente poi allora un figlio non interagisce con un genitore nell'area delle possibilità o della richiesta di permessi, se l'atteggiamento è no mai. E qua probabilmente questo è un genitore che effettivamente non sta usando buoni argomenti nel relazionarsi con un figlio che chiede un profilo su Facebook. Io partirei dall'età, cioè io chiederei a un figlio: ma tu quanti anni hai? E poi andrei a verificare che cosa dice Facebook rispetto all'età in cui il sistema proprio Facebook afferma c'è un limite di età per entrare dentro Facebook, che è quello dei 13 anni compiuti. Quindi ti direi un po' come per la patente: non hai 13 anni. Questa magari molti di noi non la sanno. Francesco da Roma, così mettiamo a disposizione dei nostri ascoltatori il nostro panel di esperti. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Io ho sentito la... Signora, col problema del ragazzo di 10 anni prima, sì. E devo dire che non sono d'accordo soprattutto in due cose. Anzi, sì. Tanto che lei abbia sbagliato in buona fede, secondo me. Sì, secondo... perché? Grazie. Primo, ma possibile che davvero non si sono resi conto che adesso sul computer, ma non solo, su tutti i giornali, sui cinema, la pornografia sta dappertutto. Possibile che il ragazzo, cioè non se n'è andato a cercare il ragazzo, è dappertutto la pornografia. Anzi, io ho tre figli adolescenti adesso, hanno 18, 16 e 14 anni. Ho passato anche da poco, i miei figli poco fa hanno avuto, pochi anni fa hanno avuto l'età della figlia, del figlio della signora. E ho visto addirittura, sì. Pensi che un mio figlio, guardi, sono andato alle scuole salesiane, pensi che un mio figlio ha visto sul computerino del compagno immagini pornografiche scaricate dal padre. Ok, Francesco, è chiaro questo suo primo messaggio. Adesso farei intervenire i nostri ospiti. Io le dico questo, che molti genitori però, quando pensano al loro figlio di 10 anni, pensano un po' al loro patatone, al loro angioletto, cioè non hanno in mente che effettivamente può incrociare il suo percorso di crescita, quando è così piccolo, un mondo che è invece tutto riservato agli adulti. Chiediamolo alla mamma, al tecnologo e al nostro sociologo. Valentina? Ma allora, sono anche in parte d'accordo con quello che ha detto l'ascoltatore. Io ho scoperto parole non adatte sui motori di ricerca cercate dai miei figli. Io ho due gemelli di 11 anni. Sì. Però ho anche dovuto consolare i miei figli in circostanze in cui sono venuti a contatto con la pornografia in ambiente scolastico. Certo. Quindi in realtà io credo che la parola internet faccia molta paura, perché è diverso dal giornalino pornografico, c'è una differenza, è l'accessibilità, è molto più facile accedere, perché il giornalino uno deve andare a metterci la faccia con l'edicolante, insomma c'è tutto un percorso, invece su internet si accede in maniera molto facile. Però io qui farei un passo indietro e mi toglierei un po' dalla tecnologia, perché in realtà Mirella e la rete di mamme sono state molto coraggiose a scrivere la trasmissione, ma sono anche state molto brave come genitori, cioè le competenze che hanno messo in gioco di fronte a quello che è successo sono competenze che vanno a prescindere dalla tecnologia e da internet, sono competenze che noi genitori, competenza è poi una parola un po' così professionale, forse poco adatta, però sono competenze che noi esercitiamo in ciascun contesto della vita, e quindi forse dovremmo un po' tranquillizzarci e dire va bene, c'è internet, non lo conosco tanto bene, però io anche perché di attenzione, anche perché Valentina sicuramente internet è un'ottima opportunità per i nostri ragazzi. Io lo credo fermamente, no? Sì, pensiamo, cioè, ti permette di fare un sacco di cose che in altre epoche non erano permesse, neanche inimmaginabili. Quindi non si sta facendo internet lo spauracchio, oddio che cosa mi capita, ma solamente capire come mettere in mano ai nostri figli, ai nostri ragazzi, e come riflettere un pochino anche noi adulti, ecco, come utilizzare queste tecnologie per, io non posso usare il nostro, la parola benessere qui, ma forse ci sta, Alberto. Certo, e direi, chiederei al nostro esperto di tecnologie, Lucio Bragagnolo, siccome arriva qualche messaggio e dice voi siete internet fobici, ma secondo lei fare questo genere di ragionamenti tra adulti significa essere internet fobici o internet consapevoli? Beh, c'è una specificità molto bella e interessante nella storia di Mirella, che è il momento in cui si accorge di quello che sta capitando a suo figlio e che cosa fa? Fa rete con gli altri genitori. Ora si pensa che si siano riuniti tutti in un caffè a prendersi un tè coi biscotti, probabilmente qualcuno sarà stato avvisato per posta elettronica. Monica, può darsi che qualcuno sia stato raggiunto tramite un forum, e si è visto, Mirella stessa ha dimostrato come sia utile, come sia potente, come la rete possa essere utilizzata per fare cose buone e contribuire alla crescita di tutti. Identificare il concetto di rete con il mezzo che trasporta le informazioni è un po' fuorviante, può essere internet come il telefono, come la chiacchierata al bar, sono momenti diversi di interazione. Nel momento in cui ci si mette insieme, il valore delle informazioni delle persone cresce. Tutto questo è un tesoro preziosissimo che, come si diceva, per i nostri figli fantastico. Così le chiedo anche di rispondere a Max da Teramo, che in un sms un po' provocatorio mi scrive: ma ditemi cosa può fare di buono un ragazzino di 11 anni su internet? Può fare anche qualcosa di buono, anzi direi, no? Dottor Bragagnolo. Sì, beh, su YouTube ci sono video montati da ragazzi di 11 anni, sullo stesso Facebook, a cui molti ragazzini si iscrivono anche se l'età non è quella giusta, si trovano poi magari gruppi che si coordinano per fare i compiti, per svolgere ricerche. L'esempio di Wikipedia è abusato, io anzi vorrei spezzare una lancia contro Wikipedia e dire usatela per scrivere i risultati delle vostre ricerche, non per copiare e incollarle. Questa è un'abitudine che è dura a morire. Io andrei da Carmelo, che ci chiama da Milano, 800 24 00 24. Vi invito a chiamare perché dopo le informazioni sul traffico raccoglieremo proprio tutte le vostre testimonianze pro e contro, suggerimenti. Carmelo, buongiorno. Io sono un consulente di informatica, nonché padre di famiglia. Sì. E a me è successa la stessa cosa che è successa, diciamo, a Mirella. A Mirella. E mi occupo appunto di informatica, quindi ho abbastanza competenze, e quando ho messo il computer in casa io sono stato molto chiaro con i miei figli e gli ho detto che non dovevano assolutamente andare su siti che non erano quelli, diciamo, canonici. Sì. Nonostante ciò è successo che mio figlio praticamente è andato su siti pornografici. E a quel punto io l'avevo avvisato che avrei tolto il computer e non l'avrebbe più usato. In effetti per un anno non ha più usato il computer. Dopodiché ne abbiamo riparlato, abbiamo mediato, e il computer è ritornato in casa. E certo, perché... perché comunque è uno strumento che ritengo, certo, che sia importante. Certo, anche perché bisogna, no, spiegare qualcosa loro, perché se non è il suo, usa quello del compagno, no? Non... Esatto, però, esatto. Però Carmelo, venga, resti con me, perché noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo subito dopo insieme. 800 24 00 24 con una carrellata delle vostre testimonianze. Essere e benessere. Carmelo, quindi dopo un anno di vieto il computer è ritornato. È ritornato in casa, il computer è in una posizione che è sempre visibile dalla nostra casa, quindi non è in una posizione in cui è nascosto in camera sua, sì, con il monitor rivolto verso il muro. E l'altra cosa è che il computer in ogni caso durante la giornata, quando non c'è un genitore, non si usa mai. Il computer è protetto da una password e non ci si può accedere se non la sera, quando un genitore mette la password. Andrea da Modena, buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno. Allora, niente, io volevo portare la mia esperienza. Io sono, appassionato, esperto di informatica e ho collaborato con le insegnanti della classe di mia figlia, che fa la quarta elementare, in un progetto proprio sulla consapevolezza, dei rischi legati alla rete, a internet, alla navigazione. Sì. E mi è stato, molto utile nella mia esperienza con i ragazzi fare il paragone sia con loro che anche con le insegnanti sul, la rete come una strada, come una città con tante strade, quindi un luogo pieno di opportunità, ma con delle regole e dei rischi. E quello che ho spiegato ai bambini, che non è facile secondo me per loro, è il fatto che l'esistenza di certi luoghi non le giustifica il fatto che loro ne fruiscano. Cioè, come per la strada ci sono bar, ci sono luoghi di uso esclusivo per gli adulti, e il fatto che ci siano non autorizza un bambino ad entrarci, stessa cosa succede nell'ambiente informatico. E questa cosa qua deve partire secondo me da noi genitori. Assolutamente. Voglio leggervi un messaggio che è arrivato sul nostro profilo Facebook. Intanto ve lo ricordo, il nostro profilo Facebook su Essere Benessere e anche il nostro appuntamento quotidiano Daily Lab, la nostra officina, il nostro laboratorio del benessere. C'è scritto sul piccio: la tecnologia non si può fermare, tocca a noi genitori vigilare sui nostri figli e consigliarli nella maniera più opportuna, ma togliere completamente internet o qualsiasi cosa, aggiunge, a priori serve per avere l'effetto contrario. Ciao, ci scrive Fulvio. In effetti un po' lo penso anch'io. E direi che forse il professor Bocciartieri, riprendendo anche la telefonata di Andrea, cioè Andrea è andato a fare un intervento di educazione in media per i bambini, ma forse questa cosa adesso è molto necessaria anche per i genitori. Sì, assolutamente sì. Mi sembra che tutte le telefonate abbiano dimostrato che l'elemento più importante è cominciare a parlarne in famiglia, considerare che quello è un luogo che viene frequentato dai nostri figli, bambini o adolescenti, e quindi non ignorare la cosa. Forse l'abbiamo ignorato troppo rispetto anche agli altri media, cioè pochissimi genitori probabilmente parlano con i loro figli di come viene fruita la televisione, ad esempio, che è un altro luogo in cui si incontrano immagini di diversa natura. E considerare che internet, la rete, è anche un posto in cui questi ragazzi si trovano con i loro amici, quindi è un luogo che frequentano anche per socializzare, per crescere, per sviluppare la propria identità, per fare sperimentazione, e quindi avere un minimo di consapevolezza, quindi formandoci e parlando con loro significa anche capire qual è la loro posizione lì all'interno, cioè capire veramente che cosa ci fanno. E molto spesso li vediamo interagire con internet e non gli chiediamo semplicemente che cosa state facendo, no? Che cosa stai facendo? E questo è già un primo passo, un punto da cui dovremmo partire, anche perché noi ci facciamo delle nostre idee con gli occhi di adulti e non vediamo loro con i loro occhi come guardano le cose che stanno facendo. Per cui non capiamo, per esempio, le immagini che caricano nei loro profili, o perché su Facebook mettono certi status update o cose di questo genere. E a proposito di sguardo, di occhi, in linea con noi abbiamo il professor Paolo Nucci, direttore della clinica oculistica Universitario Ospedale San Giuseppe di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletta. Professore, noi dalla tecnologia vogliamo utilizzarla al meglio, ma anche mettersi, collocarci davanti al terminale, allo schermo, in modo tale da proteggere i nostri occhi, non affaticarli troppo. Sappiamo che spesso è venuto fuori anche nel corso della trasmissione, i ragazzi non solo, usano anche molto il computer nelle ore conclusive della giornata, e quindi magari alcuni anche senza la luce della scrivania, no? Solo illuminati dallo schermo. Quali sono le protezioni, le attenzioni direi, che bisogna avere per la nostra vista? Allora, la problematica più comune in chi utilizza il videoterminale a lungo è quella della dislacrimia. Noi siamo abituati ad ammiccare un certo numero di volte, un 16-20 volte al minuto circa, e questo serve a lubrificare l'occhio perché così possa essere ossigenato sempre in maniera ottimale. Sì. Quello che succede è che quando lavoriamo al videoterminale si ammicca sempre di meno, questo lo fa sia il giovane sia l'adulto, quindi chi lavora al videoterminale ha un minore ammiccamento, significa minore ossigenazione per l'occhio, per cui qualsiasi segnale d'allarme, come per esempio una sensazione di corpo estraneo piuttosto che arrossamenti aspecifici, sono da tenere sotto controllo ed eventualmente trattare. In che modo? Lubrificando l'occhio, quindi utilizzo di lacrime artificiali che il medico oculista deve prescrivere quando l'utilizzo diventa abnorme. Abnorme significa quando si sta al computer più di un'ora al giorno, è normale che ci si debba proteggere. Il mondo sta andando in quella direzione, quindi non è che si può neanche pensare che non si utilizzi. Certo, certo, e anche voi oculisti vi state attrezzando. Sì, ci stiamo attrezzando, non con banalità tipo la dimensione dello schermo che deve essere grande X, Y, cioè ovviamente quando si lavora ad un terminale da vicino non è necessario che sia così grande lo schermo, è naturale che si lavora a videoterminali molto più grandi, ci deve essere una distanza maggiore, questo per affaticare di meno, come dire, lo sforzo accomodativo e quindi certo, anche il campo visivo. Professore, vuole salutarci con un consiglio, una raccomandazione? Il consiglio rimane sempre lo stesso, ogni tanto una visita oculistica è opportuno soprattutto per i più giovani, ma è fondamentale che anche un quarantenne vada a farsi il suo check-up per misurare la pressione, c'è una serie di valutazioni che dobbiamo prendere in anche perché la tecnologia aiuta l'oculista a fare delle diagnosi sempre più precise, per spezzare ancora una lancia a favore della tecnologia, oggi, che quando usata bene dà sicuramente i suoi vantaggi, vero prof? Lei sa che utilizziamo delle apparecchiature che riescono a farci delle scansioni assolute anche di un tessuto piccolissimo, meno di un millimetro, come la retina, riusciamo ad avere e vedere tutto solo con delle fotografie. Quindi l'oculistica ha fatto negli ultimi 10 anni passi da gigante, utilizziamoli. Professor Nucci, grazie per essere stato con noi. Vado. Grazie a lei. Grazie, professore. Dalla provincia di Lecco ci chiama Mario 800240024. Mario. Sì, buongiorno. Buongiorno. Eccomi. Che senta, ci diciamo? Io sono stato un po' colpito da una frase che mi sembra di aver sentito, se ho sentito correttamente, di un altro ascoltatore che diceva mi dica che cosa può fare sì, di buono. Era un messaggio, sì, era un messaggio, sì. Ecco. Allora, ditemi cosa può fare di buono un ragazzino di 11 anni su internet, Max, certo, da certo. Teramo. Allora, io ho 5 figli e io personalmente sono anche ricercatore. E devo dire che i miei figli hanno sempre avuto un accesso ampio a internet, sul quale tutti svolgono e hanno svolto ricerche nel campo anche dei loro studi, perché internet è una miniera inesauribile di possibilità di conoscenze, di acquisizioni di dati, ma non solo Wikipedia, ma ce n'è infiniti. Io sì. Trovo testi pubblicati in Nuova Zelanda ai quali non potrei mai accedere. Mia blanda impressione, anche sentendo un po' tutti gli interventi, è che non ci si renda conto che ci troviamo in un momento storico molto simile a quello dell'introduzione della stampa. È lo shock di un'intera società che improvvisamente trova uno strumento radicalmente nuovo che consente un diverso tipo di cultura. Probabilmente a quei tempi si diceva: ecco, vedi, imparando a scrivere e a leggere si possono scrivere le parolacce e leggere le parolacce, certamente, ma si possono leggere anche i promessi sposi. Certo. Quindi è un impatto globale di un nuovo strumento che va preso perché c'è e non è discutibile perché è generato dalla storia. che ha delle possibilità infinite, proprio lo relazioni sempre ai tempi di allora quando nel 1400... ma mi piace molto, Mario, chiudere con questa sua testimonianza che un po' esprime bene anche il nostro punto di vista. Ringrazio molto Mario, papà di 5 figli, con cui chiudiamo la nostra trasmissione. Saluto Valentina Carnevali, il professor Bocciartieri e il dottor Bragagnolo, Alberto Pellai, e voi tutti che ci avete ascoltato e seguito. Andate sul nostro profilo Facebook, vi aspettiamo domani. Buona giornata. Essere e benessere.